Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Informativa di Conte sull'emergenza, il peggio è alle spalle grazie all'impegno dei cittadini, ma non è ancora il tempo delle feste. E in aula nuovo scontro sulla sanità lombarda tra Lega e 5 Stelle, la regione di Fontana e Gallera ha fallito, dicono, ma la Lega insorge. Corruzione nella sanità in Sicilia, 10 arresti, c'è anche l'attuale coordinatore per l'emergenza Covid. Fase 2, boccia gli spostamenti tra le regioni solo se il rischio sarà basso. L'Emilia-Romagna intanto anticipa da sabato la stagione balneare. Vaccino Oxford-Pomezia, anche gli Stati Uniti entrano nell'impresa, 400.000 dosi pronte a settembre. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura l'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle Camere sull'emergenza Covid. Arriverà da lunedì con ritardo, bisogna dirlo, via libera al test sierologico sul campione nazionale, ha detto Conte, che poi ha parlato a proposito anche delle recenti polemiche sulle assembramenti la sera in alcune città in occasione della Movida. Conte ha detto: il peggio è alle spalle grazie all'impegno dei cittadini, ma non è ancora il tempo delle feste, e ha anche invitato a fare le vacanze in Italia. Sentiamo. Se oggi possiamo constatare che il peggio è alle nostre spalle, lo dobbiamo ai nostri cittadini. Giuseppe Conte ringrazia il paese per l'impegno e l'autodisciplina, ma chiede ancora responsabilità, avvertendo che questo non è il tempo dei party e delle movide. In una lunga informativa alla Camera, il premier fa il punto sulla fase 2 e spiega che con la ripresa è stato messo in conto un rischio calcolato di aumento della curva del contagio, ma il paese non poteva fermarsi. Di qui le misure del governo, dal decreto rilancio che ha posto le basi per la ripresa al prossimo decreto semplificazione, poi un appello alle banche a fare di più sui tempi di erogazione dei prestiti. Sono state rispettate queste tempistiche, ma mi giungono molte segnalazioni che in molti altri casi, e nella maggior parte dei casi, questo non sta avvenendo. Conte annuncia nuove misure per il turismo, ma intanto invita gli italiani a fare le vacanze in Italia. Questo è il modo migliore per contribuire al rilancio della nostra economia in questa fase di emergenza. Durante il dibattito, momenti di tensione in aula per l'intervento del deputato 5 Stelle Ricciardi, che ha attaccato la sanità lombarda, seduta sospesa per qualche minuto dal presidente Fico. Colleghi, dovete tornare ai vostri posti. Sospendo la seduta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto il ministro per gli affari regionali Boccia è tornato sulla possibilità, attesa dal 3 di giugno, di spostarsi tra le regioni, tra una regione all'altra. Ha detto Boccia: sarà possibile soltanto in presenza di una definitiva diminuzione del rischio di contagio. Intanto alcune regioni ripartono con la stagione estiva anticipata di qualche giorno. Sentiamo. L'Emilia-Romagna anticipa l'avvio della stagione balneare. Spiagge e stabilimenti della Riviera riapriranno sabato con 2 giorni di anticipo sul previsto. La regione invita a rispettare le regole per la fase 2, così il governatore Bonaccini. Non si può arrivare dal resto d'Italia, ma si può circolare in Emilia-Romagna. E sono tanti gli emiliani e i romagnoli che vanno spesso al mare o in vacanza sulle coste. Dal 3 giugno ci sarà la circolazione tra regioni e vediamo cosa succede sulle frontiere europee. Sul fronte degli spostamenti, le Marche hanno deciso di consentire quelli al di fuori del territorio regionale, ma solo verso comuni o province limitrofe e solo per i residenti nelle province e nei comuni marchigiani che sono al confine con altre regioni. Il ministro Boccia intanto ribadisce che la mobilità interregionale per le regioni a basso rischio dovrebbe riprendere dal 3 giugno. Al momento, fra le regioni italiane, solo 3 hanno un rischio medio, tutte le altre hanno un rischio basso, fa sapere il ministro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come sentivamo poco fa, il presidente del Consiglio Conte ha annunciato l'avvio del test sierologico sul campione nazionale a lunedì prossimo, mentre oggi il leader dell'opposizione Matteo Salvini chiede che i tamponi vengano rimborsati dal governo alle regioni. Allora facciamo il punto anche su come sta andando il tracciamento dei casi positivi, e lo facciamo iniziando dalla Lombardia. In Lombardia è possibile rivolgersi ad una quindicina di centri accreditati che già analizzano i tamponi per il servizio sanitario o ad altre strutture private purché dotate di laboratori di microbiologia e autorizzate ad erogare i test. Spesso è richiesta la prenotazione via internet o telefonica. I costi variano dai 25 ai 100 euro. Il referto arriva nel giro di qualche giorno. Se l'esito del test è negativo, per il paziente non cambia nulla. L'esito positivo indica invece che il paziente ha sviluppato anticorpi, ma per la diagnosi è necessario sottoporsi al tampone. In attesa di conoscere l'esito del tampone, il cittadino è tenuto a rimanere in isolamento precauzionale. In caso di tampone positivo, il laboratorio privato deve comunicare l'esito all'ATS, che attiva la procedura prevista dal sistema sanitario regionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece ci occupiamo di cronaca, perché c'è anche l'attuale coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid in Sicilia, Antonio Candela, tra gli arrestati nella maxi operazione della Guardia di Finanza su un giro di appalti e tangenti in regione che ha portato a oltre 10 arresti. Appalti truccati, corruzione, aste milionarie con cifre da capogiro, tangenti, favori, condotte spregiudicate con tanto di tariffario per pagare la commessa aggiudicata. È un ritratto che fa letteralmente a pezzi una parte della sanità siciliana colpita da un vero e proprio terremoto. L'operazione della Guardia di Finanza che ha eseguito 12 ordini di custodia cautelare. Le accuse sono a vario titolo quelle di corruzione, istigazione alla corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e turbata libertà degli incanti. I nomi sono illustri, a partire da Antonino Candela, attuale coordinatore della struttura regionale per l'emergenza coronavirus. In carcere sono finiti Fabio Damiani, attuale direttore generale dell'ASP 9 di Trapani, e un suo faccendiere, Salvatore Manganaro. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo di 7 società con sede in Sicilia e in Lombardia e di disponibilità finanziarie per 160.000 euro. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E su questa nuova operazione anticorruzione sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi. Il Covid non ferma la malapianta della corruzione, la perfeziona la dirotta negli appalti della sanità. La conferma giunge dal blitz della Guardia di Finanza che ha bloccato un fiume di tangenti in Sicilia. Il sistema è sempre lo stesso, un meccanismo implacabile, collaudato ma più sofisticato. Tutto ruota intorno ad un centro di potere nel quale si muovono pubblici ufficiali infedeli, faccendieri, imprenditori disposti a tutto per ottenere appalti milionari. La centrale unica di committenza della regione siciliana e l'ASP 6 di Palermo hanno commissionato dal 2016 quattro gare di appalti per un valore di 600 milioni di euro. Il coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19 in Sicilia è Antonio Candela, già commissario straordinario e direttore generale dell'ASP 6 di Palermo. Insieme ad altre 10 persone pilotano le gare verso amministratori di società compiacenti in cambio di tangenti del 5% su ogni commercio ricevuta. I campi di azione sono la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia. Emerge dunque un quadro allarmante intorno alla gestione degli appalti nel delicato settore della sanità pubblica, al quale va prestata un'attenzione particolare. Altre 6 persone risultano invece indagate nell'ambito dell'inchiesta per epidemia colposa aperta dalla Procura di Genova per i morti nelle RSA della provincia. Si tratta dei direttori sanitari della residenza Anni Azzurri, Sacra Famiglia di Rivarolo, del centro di riabilitazione Don Orione Paverano, della Laca Mandolina, della residenza San Camillo e della residenza protetta Torriglia a Chiavari. Adesso invece allarghiamo lo sguardo all'andamento del contagio a livello globale. Sentiamo. Cresce il numero di decessi da Covid-19 e dall'OMS arriva un allarme sull'aumento dei casi nel mondo. Nelle ultime 24 ore, secondo il direttore generale Ghebreyesus, ne sono stati registrati 106.000, il numero più alto in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Quasi 2/3 di questi casi riguardano 4 paesi, Stati Uniti, Russia, India e Brasile. La strada è ancora lunga, ribadisce l'OMS, e invita tutti a tenere alta la guardia, specie ora che il lockdown si sta allentando un po' ovunque. Colpisce Nel frattempo, una stima diffusa da un blog di statistica da cui emerge che nell'ultima settimana è stata la Svezia, che non ha mai imposto restrizioni ai suoi cittadini per l'emergenza sanitaria, il paese europeo con il più alto tasso giornaliero di mortalità pro capite per coronavirus, più di Gran Bretagna, Belgio e Stati Uniti. In Cina, infine, temendo una potenziale grande esplosione di nuovi casi nel nord-est del paese, le autorità sanitarie stanno imponendo blocchi a Jilin, provincia di 27 milioni di persone, che si trova ai confini con Russia e Corea del Nord, dove si è sviluppato l'ultimo focolaio di Covid-19. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Novità anche sul vaccino progettato insieme dalla IRBM italiana con lo Jenner Institute di Oxford, perché anche gli Stati Uniti fanno sapere di voler entrare nel progetto e anzi ci sono entrati con un investimento da $1 miliardo che servirà alla produzione su vasta scala da parte della multinazionale americana AstraZeneca di 400.000 dosi pronte già da settembre. Gli Stati Uniti entrano nella squadra per lo sviluppo del vaccino anti-Covid in sperimentazione a Oxford, al quale collabora anche l'azienda italiana IRBM di Pomezia. Il vaccino, prima testato sulle scimmie e da circa un mese sugli uomini, sta per entrare nell'ultima fase di sperimentazione. Gli States partecipano con un finanziamento di oltre $1 miliardo che l'autorità USA per la ricerca biomedica avanzata ha messo a disposizione della multinazionale AstraZeneca per lo sviluppo, la produzione e la fornitura del vaccino a partire dall'autunno. AstraZeneca ha concluso i primi accordi per la fornitura di almeno 400 milioni di dosi, con la prospettiva, segnalata dagli esperti, di una capacità totale di produzione di 1 miliardo di dosi nel 2020-2021. Le prime consegne, se l'ultima fase di sperimentazione funzionerà, sono previste a settembre. Dopo la prelazione di 30 milioni di dosi da parte del governo inglese, la multinazionale fa sapere di stare lavorando ad accordi in parallelo anche con altri governi europei per assicurare, spiega, un'ampia ed equa fornitura del vaccino nel mondo con un modello no profit durante la pandemia. Il successo della sperimentazione clinica di fase 1 sull'uomo era stato confermato dallo stesso presidente di IRBM, Piero Di Lorenzo, che aveva rassicurato sulla piena salute dei primi volontari vaccinati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13, Effetto Giorno fa una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalla scuola, per cui a parte il dolore di vedere riaperto tutto, tranne la scuola, ma... lo ha detto anche oggi Conte, si sta lavorando per settembre, ancora non c'è un piano, non c'è una data, sembra però di sicuro che al momento manchino i presidenti di commissione per fare l'esame di maturità, perché sembrerebbe che le linee guida e i protocolli di sicurezza non siano abbastanza rassicuranti per questi dirigenti scolastici e insegnanti. Poi sogneremo un po' quest'estate con la riapertura della stagione balneare e andremo in Romagna, dove la stagione viene anticipata di 2 giorni, si parte già da sabato. E poi ve lo anticipo, alle 13:30 torneremo sul caso dei test sierologici e dei tamponi in provincia di Milano. A Cisliano il sindaco li fa fare ai suoi dipendenti, scopre dei positivi, ma l'ATS di Milano non fa il tampone. Vedremo di capire ancora una volta perché, che succede, perché si blocca tutto. 349-238-6666. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, il peggio è alle spalle grazie all'impegno dei cittadini, ma non è ancora il tempo delle feste, così Conte nell'informativa alla Camera, nuovo scontro Lega 5 Stelle sulla Lombardia. Corruzione in Sicilia, 10 arresti tra imprenditori e funzionari, c'è anche l'attuale coordinatore per l'emergenza Covid. Fase 2, l'Emilia Romagna anticipa la stagione balneare, si parte da sabato. Vaccino Oxford Pomezia, anche gli Stati Uniti entrano nell'impresa, 400.000 dosi sono già pronti a settembre. Cari ascoltatori, eccoci qua, questi erano i titoli principali di oggi. Torniamo a parlare, come anticipato, anche di scuola, perché tra le notizie che non abbiamo messo nei titoli ma che sono di questi giorni c'è quello che riguarda la scuola. Non solo per la scuola non ci sono ancora piani di ripartenza definiti, non c'è una data sicura, sicuramente abbiamo rinunciato a ripartire in questa stagione. Adesso però arrivano problemi in vista anche per l'esame di maturità, perché mancano diverso numero di presidenti di commissione per l'esame di maturità. presidenti di commissione, tra dirigenti scolastici e docenti con una certa anzianità, non se ne trovano a sufficienza. Sembrerebbe perché tra i docenti c'è paura per un possibile contagio, perché dicono che i protocolli non sono abbastanza sicuri. Effettivamente, per esempio, non è prevista la misurazione delle temperature all'ingresso a scuola. Insomma, di questi problemi parliamo con Rosanna Colonna, segretario regionale CISL Scuola Campania. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, diciamo prima di tutto che questi problemi riguardano principalmente le aree del nord, in particolare nella zona di Milano, dove si parla di un numero quasi fino al 50% di carenze di presidenti di commissione. Nel resto d'Italia le cifre ufficiali parlano di meno del 20% di presidenti di commissione assenti, tenendo conto che spesso le commissioni, gli organici si completano spesso a ridosso dell'esame di maturità. Però c'è un problema, un tema sollevato anche da voi sindacati sui protocolli di sicurezza, che dite non sono abbastanza sicuri, mancano degli aspetti. Ora io le chiedo, a parte insomma il dolore di vedere le scuole chiuse, tutto aperto, le scuole chiuse, però detto questo, quali sono le linee guida che mancano, che contestate da questo punto di vista? Allora, sicuramente il problema è notevole. Il numero di presidenti di commissione che manca fa proprio comprendere la difficoltà che si sta affrontando in questo momento, perché pensi che in passato addirittura c'erano liste di attesa di persone, docenti e dirigenti che devono di fare i presidenti di commissione negli esami di Stato. Se oggi siamo a questo punto, che mancano in Campania, la dottoressa Franzese ha fatto una circolare di invito addirittura a produrre domanda anche fuori termine, quindi ora, pur di completare le commissioni, ci sono una parte di commissioni costituita ma non ci sono sicuramente il numero di presidenti sufficienti, pensi un po' la difficoltà che c'è. La difficoltà non è dovuta solo alla paura, è dovuta sicuramente, come giustamente diceva un attimo fa, ai protocolli di sicurezza. Voi lei sicuramente sa che il protocollo d'intesa col MIUR tra sindacati è stato sicuramente firmato anche come atto di responsabilità, ma si chiede di garantire la sicurezza nelle scuole e di garantire anche la tranquillità dei dirigenti scolastici delle scuole dove si faranno gli esami di Stato e dei dirigenti scolastici visti come presidenti. Non ci sono tutte le garanzie e di oggi la richiesta al governo di assumersi finalmente le responsabilità e di fare di preparare un percorso sicuro e certo per fare gli esami di Stato nel modo migliore. Quindi la sofferenza è questa. Non è lei un attimo fa mi parlava della, ecco, ma c'è qualcosa che si potrebbe fare per ovviare a questo, cioè correggere linee guida? Mi dica una cosa che correggendola si aprirebbero le porte, diciamo, a queste richieste per essere presidente di commissione. Noi sicuramente, visto il protocollo d'intesa col MIUR, stiamo chiedendo un tavolo al direttore dell'ufficio scolastico regionale e anche al governatore della Campania, che come ben sa non ha dato il suo assenso all'accordo Stato-Regione. Ci sono dei paesi che sono zona rossa. Noi vogliamo capire come il governo, come anche la regione, come il MIUR può venirci incontro a un tavolo che noi abbiamo chiesto, che già era previsto. Va bene, un tavolo insomma per vedere di trovare delle risposte a queste volte. Come avere delle risposte dalle istituzioni. Colonna, come segretario regionale di un sindacato importante della scuola in Campania, io le chiedo, ma parlando anche un po' a nome della categoria, non sarebbe anche forse il momento di fare, come dire, uno scatto di propositività, di responsabilità per questa categoria che a questo punto in Italia è rimasta l'unica a non essere, diciamo, entrata nel vivo della fase 2, perché gli insegnanti sono fortunatamente a stipendio pieno, non hanno perso un euro fortunatamente rispetto ad altri e hanno anche sicuramente, sarà un'analisi sbagliata, ma agli occhi di molti lavorato di meno perché la didattica a distanza è partita tardi, in alcuni posti non è neanche partita. Allora ci si domanda come mai proprio adesso sorgano questi problemi. Non è che c'è anche questo aspetto, perché tutti stanno affrontando la fase 2 con le loro difficoltà e i loro rischi, tutti i professionisti, gli autisti, gli infermieri, i giornalisti, i meccanici, chiunque, tranne gli insegnanti? Perché la scuola è fatta da ragazzi, nella scuola ci sono i ragazzi e i ragazzi è difficile digli stai lontano un metro e mezzo, al di là del fatto che non ci sono le aule che permettono di entrare in 15 solamente, visto che ci sono classi a 33 alunni. E quindi diventa difficile a un bambino dell'infanzia, della primaria, a un bambino, a un ragazzino della scuola media, dove il contatto con il compagno è la prima cosa nella scuola, diventa difficile. Non c'è il problema che il docente ha paura di entrare in classe. Però qua, questo, scusi, no, parliamo di esami di maturità, parliamo di 18 anni. Gli esami di maturità di è la stessa cosa. Sì. Insomma, lei pensi che i ragazzi, che oggi sono in sciopero, no? I ragazzi per l'esame di maturità, quindi parte anche da loro la problematica. Loro dicono sì, l'esame in presenza. Quale presenza è? Se io lo devo fare da solo, il compagno non può stare con me, io sono solo, dopo un quarto d'ora che io sono uscito, entra l'altro, perché così è previsto. Beh, certo. Cioè, è tutto una cosa falsa. Ma il mondo sta cambiando per tutti. Quello che insomma, si osserva è che, diciamo, nel mondo della scuola questo cambiamento arriva in ritardo, perché al momento ancora non sappiamo, tra l'altro, quale sarà il modello poi per la ripartenza. Naturalmente questo non è una cosa che io imputo a lei in particolare, è, diciamo, la commissione, il ministro Azzolina, il governo, forse anche i sindacati, gli insegnanti, non so, non si è ancora riusciti a trovare una soluzione per questo. Fortunatamente c'è tempo, sarebbe stato invece anche bello iniziare, per esempio, chi aveva l'esame di maturità, erano delle proposte in campo, reiniziare a tornare a scuola prima in vista di questo esame, come è stato fatto in Germania, dove il coronavirus c'è stato esattamente come da noi. Io la ringrazio, Rosanna Colonna della CISL Campania Scuola, vedremo se almeno per gli esami di maturità troveremo una soluzione. Con, aggiungo, forse questo ennesimo tavolo per trovare una soluzione. Appunto, dicono gli insegnanti, almeno misurare, che so, la temperatura. Questo si può fare, no? La temperatura all'ingresso di scuola. Perché nel protocollo non è stato inserito questo, per togliere ogni, uso anche una parola volutamente, diciamo, maliziosa, ogni alibi a chi fosse in qualche modo poco intenzionato a tornare sul posto di lavoro. Adesso ci spostiamo invece dalla Campania a Milano per andare a vedere con gli occhi di Cristina Carpinelli cosa di cui si è parlato molto, almeno a Milano, ma sul tema della mobilità, delle biciclette, delle città che costruiscono nuove piste ciclabili per venire incontro all'esigenza di mobilità in un periodo in cui i mezzi pubblici non possono assolvere le stesse funzioni di prima. Ecco, la storia della ciclabile di Corso Buenos Aires, osteggiata dai commercianti e dagli automobilisti, voluta molto da tanti altri cittadini, e adesso la novità è che per la prima volta anche una parte dei commercianti sono favorevoli alle due ruote. Sentiamo. Facciamo la segnaletica, mettiamo la vernice per terra e delimitiamo il percorso ciclabile. Dovrebbe arrivare fino a Sesto San Giovanni. Quanto ci metterete per finirla? Dipende sempre dal traffico. Però contate cosa, un mese? Sì, più o meno. Siamo in zona Porta Venezia, Milano, in piena fase 2. Si lavora alla creazione di una ciclabile che dal centro arriverà fino a Sesto San Giovanni. Si tratta di un piano per evitare assembramenti sui mezzi pubblici e ridurre il traffico d'auto in una delle città più inquinate d'Europa, nonché una delle più colpite dal coronavirus. L'idea piace ai cittadini in modo trasversale tra nuovi e storici ciclisti. Super comoda, poi l'hanno appena fatta, si viaggia bene. Io in realtà arrivo da Mariano Comense, mi arrivo in macchina fino a Buenos Aires, ho la bici pieghevole, il baule, la carico giù e pedalo. Un ragazzo ipocondriaco e quindi mi ha consigliato, anzi obbligato, a prendere la bici. Vado in monopattino, lo trovo comodo, molto comodo. In Porta Venezia praticamente la gente che deve svoltare a destra attraversa la ciclabile, e lì secondo me è molto molto pericoloso. Tutte le polemiche sono abbastanza scure, cioè sono contenta che l'abbiano fatta. Sono macchine parcheggiate lungo la ciclabile? Generalmente più in fondo sì. 23 chilometri di nuovi percorsi ciclabili e altri 12 entro la fine del 2020 non sono in realtà ciclabili vere e proprie, ma spazi riservati alle bici e sottratti alle auto, e questo sta scontentando una parte di residenti e commercianti che di fatto sottolineano un problema reale che riguarda le procedure di carico e scarico. Su Corso Buenos Aires affacciano 350 negozi, le ciclabili sono fra il marciapiede e i parcheggi, col risultato che per consegnare la merce i fattorini tagliano spesso la strada ai ciclisti. È stata fatta malissima, tutti i giorni c'è qualcuno che litiga. dai corrieri a quelli che vanno in bici, e uno deve scaricare, se mentre scarica si trova con le bici che arrivano. E già in 10 giorni sono successi quasi 5-6 sinistri. È un ottimo progetto, solo che in alcune parti bisogna rivedere, perché ovviamente è un po' scomodo per chi deve venire a fare forniture o che. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 26 minuti, questa dunque la situazione per quanto riguarda insomma la vicenda annosa per quanto riguarda la città di Milano, ma credo che storie del genere ci siano un po' in tutte le città. La famosa ciclabile di Corso Buenos Aires, staremo a vedere poi anche nei prossimi giorni e anche nelle altre città come ci stiamo organizzando con queste forme di mobilità alternative, ma che poi alternative non sono, perché sono 20 anni che parliamo della necessità di cambiare qualcosa nelle nostre città. È tornata a trovarci il sindaco di Riccione, Renata Tosi, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuta. Allora, ci eravamo già sentiti proprio per parlare di come vi state organizzando in vista della stagione balneare dell'Emilia Romagna e di voi in particolare di Riccione. Adesso l'annuncio è che la regione ha deciso di anticipare, se ho capito bene, di 2 giorni rispetto a quanto stabilito in precedenza l'avvio della stagione, così? È così, nottetempo la regione ha deciso che si apre il 23 anziché il 25, e al di là diciamo delle discutibili modalità, però noi siamo contentissimi, quindi anche se dovremo correre e non saremo perfetti, però il semplice fatto di poter dire che la stagione si è avviata e quindi poter accogliere già sulla parte a mare, nei ristorantini piuttosto che nei chioschi, i nostri cittadini, i nostri turisti, fa risorgere il sorriso. Molto bene, perché avete deciso diciamo di anticipare e in che modo rispetto a quando ci siamo sentiti? Gli ombrelloni non erano ancora stati poggiati in terra, io credo una decina, 15 giorni fa, quindi adesso diciamo la situazione è operativa, e qual è? Per dire la verità, la parte diciamo più strettamente dedicata all'ombreggiamento e alle brandine è work in progress, perché ancora oggi i miei operatori del mare stanno montando, però anche questo ha un fascino, e diciamo che probabilmente l'anticipo rispetto al 25 è dato per poter godere di questo bel weekend che accoglierà, ahimè, solo gli emiliani romagnoli, perché come ben sapete insomma le regioni si apriranno il 3 di giugno, sperando che poi anticipino all'1. Però insomma tanti dei nostri turisti e dei nostri graditissimi ospiti sono anche emiliani. Quindi si comincia, si deve, come voi sapete, anche mettere piedi nelle attività per comprendere bene quali sono tutte le procedure di sicurezza che quest'anno adotteremo e adottiamo anche con piacere per garantire sicurezza e tranquillità ai nostri turisti, ma da dentro le attività le cose sono logicamente più facili. Senta, la questione che le voglio sottoporre è quella dei prezzi, quella delle tariffe, perché gli stabilimenti fin qua, gli balneari non hanno accumulato perdite, almeno non mi risulta, la stagione doveva iniziare più o meno in questa stessa fase, forse c'è qualche giorno di ritardo a seconda delle riviere, non lo so, però a differenza di bar e ristoranti che hanno accumulato grosse perdite, in questo caso diciamo, si possono sperare di fare un fatturato, come dire, in linea con quello degli anni scorsi o qualcosa del genere, ma io le chiedo, c'è un sistema per monitorare l'andamento dei prezzi, per evitare che aumentino? Perché sicuramente se ci saranno un po' meno ombrelloni e comunque di fronte a una situazione di crisi, la tentazione, forse anche in alcuni casi la necessità degli operatori di aumentare i prezzi ci può essere, però per il consumatore che garanzie ci sono di riuscire a farsi una settimana in spiaggia tranquillamente ai prezzi dell'anno scorso? Beh, tutti gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare i prezzi della stagione successiva a ottobre, quindi da noi gli operatori lo hanno già comunicato. È logico che quest'anno ci saranno più sorprese, nel senso che ahimè per la nostra costa si sta già perdendo, perché normalmente per il periodo pasquale noi siamo operativi, però a questo si deve anche aggiungere il fatto che quest'anno avranno sicuramente molti più costi per la igienizzazione e per tutti i presidi. Però il patto è stato già fatto in tempi non in discussione e loro intendono rispettarli. Qui nessuno intende, diciamo tra virgolette, lucrare. Se vogliamo riproporci sul mercato e ai nostri turisti come località aperta e come località accogliente come siamo sempre stati, sono okay. Tutti assai consapevoli che quest'anno non si guadagna. Cioè, noi portiamo a fare la metà dei fatturati dell'anno scorso con un grandissimo senso di responsabilità per il quale io ringrazio i miei operatori. Qui si tratta di tenere anche in luce un brand, il brand della città di Riccione, e tutti insomma si sono resi disponibili. Speriamo di partecipare a tenere illuminati questi brand, nel senso come consumatori. Grazie, è molto importante. E di poterci recare presto anche noi in spiaggia. Grazie al sindaco grazie di Riccione, a voi. Renata Tosi. Buona grazie. Giornata. Buona giornata. Allora, 13:31 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. Borsa, titoli e poi riprenderemo con la questione dei test sierologici, tamponi, cosa succede, chi li paga, chi li fa, chi non li riesce ancora a fare. Provincia di Milano, tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Effetto giorno. Queste le notizie di oggi, il peggio alle spalle grazie all'impegno dei cittadini, ma non è il tempo delle feste, così Conte nell'informativa alla Camera, nuovo scontro Lega 5 Stelle sulla Lombardia. Corruzione in Sicilia, 10 arresti tra imprenditori e funzionari. Vaccino Oxford Pomezia, 400.000 dosi pronte già a settembre. Test sierologici, il sindaco di Cisliano li fa fare ai suoi dipendenti, ma la TS di Milano non fa il tampone ai positivi perché, dicono, il comune avrebbe agito prima della delibera regionale. Ne parliamo tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. In molti avete commentato l'intervista con il responsabile della CISL Scuola della Campania, in tanti molto critici nei confronti degli insegnanti che non sono entrati nel vivo di questa fase 2 e invece poi, come è normale che sia, molti scrivete, molti insegnanti dicendo guardate che noi stiamo lavorando il doppio, ci sono tanti messaggi, chi altro, adesso non leggo i nomi, ma insomma diversi messaggi che dicono noi stiamo lavorando molto di più adesso noi insegnanti in questa fase qua, con la didattica a distanza. Allora io quello che posso dire è che intanto non in tutte le scuole, non in tutte le classi si fa lo stesso quantitativo di ore di didattica a distanza, perché poi fino a un certo punto non è stata neanche obbligatoria, quindi è partita tardi e a macchia di leopardo. Quindi forse voi parlate per voi, però sappiate che in tante realtà i ragazzi non ricevono lo stesso quantitativo di ore di didattica a distanza. Poi se state lavorando il doppio, forse ci sarà anche un tema di organizzazione del lavoro rispetto a prima, di produttività del lavoro degli insegnanti, anche se può sembrare un'eresia parlarne, perché dobbiamo ricordarci che le ore, effettivamente il prodotto finale, le ore nei confronti dei ragazzi sono diminuite rispetto a prima, quindi se lavorate il doppio ci deve essere un problema da qualche parte, magari non è un problema direttamente dell'insegnante, ma è un problema della scuola, sicuramente, questo sì. 13:38, il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Ci hanno detto in questi mesi di pandemia che il reddito di cittadinanza ha salvato dalla povertà molte famiglie e nessuno può dire nulla, la devastazione sociale fatta dal virus ci fa ammutolire, ma forse bisogna squarciarlo questo velo di ipocrisia. Si potevano trovare molti altri modi per erogare sussidi ai poveri ed esistevano di fatto già prima. Non c'era bisogno di mettere in mezzo finti patti per il lavoro e fantomatici navigator. Non sembri un maramaldeggiare, ma il coronavirus purtroppo ha spazzato via anche certo velleitarismo. Piuttosto, come si temeva, quello strumento è diventato facile preda di abusi e truffe. Come avete sentito bene ieri, proprio qui a Effetto Giorno, l'ultima è quella scoperta dalla Guardia di Finanza in Calabria, dove 101 ndranghetisti percepivano il sussidio. Ora l'INPS recupererà 516.000 euro. Finora i controlli fatti in modo campionario dalla Guardia di Finanza sul discusso assegno hanno portato a irregolarità in ben oltre il 30% dei casi. Ed è chiaro che mafiosi e ndranghetisti chiedono il reddito di cittadinanza anche per sfregio. Ed è forse quel sovrappiù di sberleffo allo Stato che fa più rabbia. A Allora, torniamo, come anticipato, a parlare di test sierologici, di tracciamento, insomma della capacità del nostro sistema sanitario regionale e nazionale di individuare i casi positivi, isolarli, trattarli, curarli, ma soprattutto di individuarli. Oggi il Presidente del Consiglio Conte ha detto: siamo il primo paese per tamponi, per numero di tamponi per abitanti, per diciamo sottolineare lo sforzo fatto dal governo italiano. Però bisogna anche dire che sempre oggi c'è una classifica internazionale pubblicata dalla Oxford University che smentisce Conte, perché è vero, l'Italia è ai primi posti, al quinto posto, ma al primo posto c'è l'Islanda come uno dei tamponi per abitanti. C'è anche da considerare il fatto che il numero di tamponi per abitanti deve, come dire, entra in interazione con il numero di casi che ci sono stati in quel paese. L'Italia ha avuto tanti casi, più per esempio della Germania o di altri paesi, quindi è normale che si siano fatti più tamponi per abitanti. Bisogna considerare quanti tamponi vengono fatti per ogni positivo al coronavirus. Lì si capisce quanto il paese si sta impegnando nella sorveglianza, nello screening di sorveglianza, e non solo nella diagnosi, che sono due cose diverse. Poi c'è la questione dei test regionali, le test sierologici. Il campionamento nazionale partirà lunedì, quello organizzato da Arcuri per vedere a che punto è l'epidemia nazionale, ma poi ci sono i test locali, lo stanno facendo le regioni, ai loro dipendenti, sindaci di alcuni comuni e poi anche privatamente. Ora vi vogliamo raccontare lo sviluppo del caso di Cisliano. È con noi il sindaco Luca Durè, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Il caso di Cisliano, di cui ci eravamo occupati intervistando l'ATS di Milano, che all'epoca aveva negato i tamponi a chi? Alle persone che voi avete sottoposto a test sierologico, alcune centinaia, adesso nel complesso siamo arrivati a oltre 2000, ne sono venuti fuori un 45, io ricordo all'epoca, positivi al test, che andrebbero tamponati per sapere se effettivamente sono contagiosi. Ma l'ATS di Milano vi ha risposto di no, adducendo alcune motivazioni. Lei ha fatto un esposto, ci racconta gli ultimi sviluppi, che sono di un ulteriore stop a degli altri test che lei stava facendo, giusto? Sì, diciamo l'ultima novità che è lo stop all'ultima giornata dei test che avevamo già programmato da tempo, era quella prevista per la giornata di ieri. Sostanzialmente noi l'altro ieri pomeriggio abbiamo ricevuto una diffida che sostanzialmente ci ha impedito di eseguire i test, anche perché una diffida rivolta al comune. Lei in passato aveva fatto già questi test, e dove li aveva fatti? Come li aveva organizzati e a chi erano rivolti? Allora abbiamo organizzato, io ho preso spunto dall'esperienza del comune di Robbio, che è stato il primo in Lombardia a partire con questo tipo di test. Ci siamo affidati allo stesso laboratorio che li aveva fatti a Robbio, che peraltro li ha fatti in diversi comuni della Lombardia, sì. E che si appoggiava ad un laboratorio di Napoli, il laboratorio Varelli di Napoli, in quanto i laboratori di Regione Lombardia all'epoca avevano il divieto di effettuare questo tipo di analisi. Quindi la premessa è: i laboratori della regione non facevano questi test perché erano in ritardo rispetto a una tabella di marcia di accelerazione che poi è stata messa in campo, perché anche Regione Lombardia adesso fa i test sierologici, ma ha iniziato per prima la Toscana, poi l'Emilia Romagna. Regione Lombardia ha iniziato un pochino dopo. Lei ha iniziato prima di quanto avesse iniziato Regione Lombardia. A questo punto, lei ed anche altri, a questo punto ha iniziato a testare delle persone. Chi erano? Dipendenti del comune, immagino? Allora, noi siamo partiti dai dipendenti comunali, perché chiaramente volevamo avere la tranquillità di mandare sul posto di lavoro persone che non potessero diventare un pericolo, anche perché perfetto. I dipendenti sono in contatto con le persone. Quindi dipendenti, poi mi scusi poi se la interrompo, ma le faccio raccontare bene la storia, e poi volontari che lavorano sempre nel comune, nel suo comune. Giusto. Sì, sono i volontari, quelli che fanno un servizio sanitario, volontari della Croce Azzurra, abbiamo dei volontari che portano il pasto agli anziani. Ok, che perfetto. Fanno dei servizi, e fin qua mi sembra che non ci sia niente da eccepire. Alla fine, lei, se ho capito bene, sono venuti fuori 45 test positivi, giusto? Sì, chiaramente non sui volontari, perché dei volontari e dipendenti ne abbiamo trovati due. Sì. Poi abbiamo esteso anche alla cittadinanza la possibilità di fare questo test su base volontaria, a pagamento, in modo che non ci fossero aggravi sulle casse comunali. Va bene. Questo nell'ottica di fare uno screening anche sulla popolazione. E complessivamente sono venuti fuori due tra i dipendenti volontari, più i cittadini, 45 sì, positivi. I 45 adesso ne sono arrivati altri, stiamo aspettando gli ultimi dati, perché chiaramente noi abbiamo fatto 1.800 prelievi, ma comunque, non abbiamo oltre 40, alcune decine 40, positivi. A cui lei voleva fare il tampone, che serve per capire se queste persone non hanno solo gli anticorpi, ma sono effettivamente ancora positivi e contagiosi. Però la TS di Milano l'ha detto, ha negato. Noi avevamo intervistato il responsabile, De Michele, aveva detto perché i vostri test non erano tra quelli validati. Ma diciamo che non solo erano tra quelli certificati, diciamo, perché poi si parla di certificazione, che è una certificazione CE che è valida a livello europeo. Il nostro test è stato il primo a livello europeo a ricevere la certificazione di conformità. Quindi lei replica che i suoi test sono certificati. Sì, ma tra l'altro diciamo che abbiamo avuto un riconoscimento ufficiale anche da parte di Regione Lombardia, perché con l'ultima delibera, la 3131 del 12 maggio, di fatto si apre anche ai privati la possibilità di fare i test, e i requisiti che devono avere i test... Sì. Differenti da quelli che usa la Regione Lombardia, sono esattamente quelli che avevano i nostri test. Allora, metodo... scusi, l'ultima possibilità che resta per spiegare il rifiuto è che, se abbiamo capito bene, Regione Lombardia dice che voi siete partiti prima che ci fosse una delibera della Regione che prevedesse questo. Siete partiti troppo presto, in pratica. Questo è stato il vostro errore. Sì, se qualcuno ci ha detto che abbiamo fatto una fuga in avanti. Io dico ci sono gli altri che sono rimasti indietro, perché dal nostro punto di vista questo tipo di indagine epidemiologica a livello territoriale è importantissima, ed era importantissima farla prima della fase 2, perché capire la diffusione del virus, capire quanto effettivamente il virus aveva circolato, sarebbe stata un'informazione fondamentale per capire anche quali potessero essere poi i rischi di riaprire, allentare tutti i vincoli e rimettere in libera circolazione le persone. Sindaco, ci risentiamo più avanti, vediamo se lei avrà delle risposte all'ATS, se capiremo perché effettivamente l'hanno stoppata. Può darsi che lei abbia sbagliato effettivamente qualcosa nelle regole, nelle norme. Nella sostanza sembrerebbe proprio di no, che lei si sia mosso con giusto tempismo per testare i suoi concittadini. Staremo a vedere. Grazie intanto. Noi facciamo Grazie una piccola pausa, torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.